Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Nella puntata di ieri sera abbiamo scoperto che in buona sostanza esistono due car sharing, due servizi che chiamiamo con lo stesso nome ma che sono fondamentalmente diversi tra loro e anche complementari. C'è il car sharing tradizionale, che ha un costo di abbonamento relativamente elevato, un costo d'uso invece relativamente basso, funziona per prenotazione ed è destinato soprattutto agli spostamenti lunghi e anche pianificati, trasferte, i fine settimana, vacanze in famiglia, eccetera. Poi c'è il car sharing di nuova generazione, detto anche free flow, caratterizzato invece dalla possibilità di prelevare e abbandonare il veicolo un po' ovunque, di fare tutto questo anche all'ultimo secondo e quindi un modello adatto agli spostamenti brevi, non pianificati, in città. Ma perché funzioni bene il sistema ci vogliono entrambi e qui cominciano i problemi. Ne parliamo con Marco Mastretta, che è direttore di ICS, iniziativa car sharing, nonché anche ingegnere del traffico, che è tornato a trovarci. Buonasera Mastretta. Buonasera a voi. Dunque, dal numero di operatori che si stanno buttando nel cosiddetto car sharing free flow, sembra che si tratti di un segmento, diciamo così, di business attraente. Mi chiedo invece se lo sia l'altro, cioè quello tradizionale. Io, per esempio, se avessi a portata di mano uno di questi car sharing tradizionali, sicuramente potrei fare a meno di una delle due auto. Abito in un paese di medie dimensioni della provincia di Varese, quindi anche una provincia ricca, eppure non c'è. Bene, lei ha toccato un punto molto, molto importante. I servizi di car sharing free flow, come dicevamo, necessitano per forza degli operatori professionali, ma soprattutto con le spalle larghe dal punto di vista finanziario e imprenditoriale, perché come abbiamo visto a Milano, questi operatori entrano con 450-500 auto alla volta, sul territorio tutti in una volta, perché altrimenti un servizio a rilascio libero non risulta efficiente, d'accordo? I servizi di car sharing puro, invece, sostanzialmente hanno visto in Italia, come da altre parti, un diffondersi un po' a macchia, come lei può vedere tuttora, con operatori locali abbastanza piccoli qualche volta. Allora, per avere una diffusione come quella che lei auspica e che ovviamente anche noi auspichiamo, perché avrebbe sicuramente un senso, è necessario che le dimensioni di chi dà il servizio crescano, come è successo in Svizzera dove c'è un operatore solo, come è successo in Germania dove c'è stato un processo di concentrazione attorno a pochi operatori a livello nazionale. In Italia questo processo non è ancora avvenuto. Noi ci auguriamo, anche per l'integrazione dei servizi, che nel tempo minore possibile ci si renda conto che offrire car sharing vuol dire offrire l'intero pannello di opzioni che si hanno. Ecco, qui perché andiamo verso un altro discorso ancora, che è quello dell'integrazione e dell'interoperabilità, mi sembra di capire, degli operatori. Voi siete una rete che svolge esattamente questa funzione, per cui, non so, l'abbonato di Guidami, se non sbaglio, no, di Milano, automaticamente, siccome Guidami aderisce alla vostra rete, avrà la possibilità di utilizzare a Roma un car sharing che a sua volta ha aderito a questa rete. Però non c'è in questo momento un'interoperabilità, diciamo, orizzontale all'interno della stessa città, magari tra operatori diversi, che invece dal punto di vista dell'utente naturalmente sarebbe la manna, no? Noi condividiamo questa posizione e speriamo che questo tipo di integrazione arrivi abbastanza presto, anche perché in realtà è una tendenza generale in tutto il settore dei trasporti, quindi ci auguriamo che... Ecco, ma perché c'è bisogno di augurarselo? Perché non accade? Quali sono le resistenze, i motivi per cui si fa fatica? Teniamo conto che questo è un mercato giovanissimo dal punto di vista del car sharing, diciamo, di tipo free flow, e che è percepito come un mercato altamente competitivo, come lei stava dicendo, e quindi evidentemente c'è una, in qualche senso, naturale resistenza degli operatori a mettere in comune il cliente. Soprattutto io credo che i comuni, che sono in qualche modo gli affidatari, comunque quelli che danno il permesso al servizio, devono giocare in questo senso un ruolo importante, così come lo giocano anche sul trasporto pubblico. Anche perché con molti abbonamenti, diciamo, che vengono rilasciati gratuitamente, uno se ne mette in tasca un certo numero, a quel punto certamente, non cambia proprio niente. Quello che succede un po' in tutte le città. città dove questa integrazione non c'è, come a Berlino, Amsterdam, sostanzialmente uno ha in tasca 3, 4, 5 abbonamenti e li utilizza in funzione della propria convenienza, di cosa gli conviene utilizzare in quel momento. A questo punto tanto vale integrarli e utilizzare al massimo anche l'effetto di complementarità di cui si parlava prima. Effetto scala, diciamo così, in un certo senso. Sì. Grazie Mastretta, grazie, buonasera. Grazie a voi, buonasera. Ci fermiamo qui, ci sentiamo domani.